perché la, purtroppo lavoro in quel mondo lì, se no magari non mi fanno più, capito? Cioè mi ci puntano contro. Ah beh, c'è ragione, tu devi essere riguardato su certe cose e dividerci, devi stare attento come parli, però chi può farlo l'ha fatto, si è sfogato, l'hanno detto tutti che hanno fatto una figuraccia proprio, ma brutta, brutta, brutta. Sì, io professionalmente non posso esporremi, perché purtroppo mi conoscono tutti gli organizzatori e cosa, sono un professionista, perché se no, no, se no a Putindini che ve l'aveva detto anda a cogliere ciocca. Procarinale, vabbè, ma nel complesso dai, è andato bene come concerto, non ci sono state risse, è andato tutto bene, perlomeno per quello che ho visto io, è caduta solo una donna davanti a me, che ha saputo male, non vedi, sul marciapiede, è caduta davanti a me, sono riuscito a tenerla, ma una parte con le ginocchia è caduta. Beh, ho visto anche uno che l'ha buttato in barella, questo è stato embriaco. Ok. Va bene, dai, io vado a far da mangiare, ci sentiamo. Ehi, Antu, ciao, ciao. Cosa prepari di buono? Boh, come devi preparare? Boh, cerco dei sofficini, faccio dei sofficini in forno. Ok, ci sentiamo. Ciao, ciao, Antu, ciao, buon appetito, dai. Quando farà carica. Avanti. Ciao Antonio, buona serata e buona cena. Ciao ciao, grazie a tutti. Ciao ciao Antonio. Luca, e quindi sei rientrato al lavoro? Quando sei rientrato? Ieri? Stamattina ore 7 ero presente già a Porto Torres, però siccome non c'è molto, perché lunedì bene o male è quasi un ponte, escono poche macchine, allora all'1:15 ho chiuso tutto e me ne sono andato, tanto già mi rintracciano al telefono se c'era qualche urgenza, e invece tutto è andato liscio e quindi si riprende lunedì mattina. Gappa, gappa. Qua si stanno ancora scoppiando le palle. C'è Tyson che è sempre incazzato a Miami. E hanno rotto le scatole con questi petardi. A parte i cani, io c'ho il pensiero, cioè è un mio ragionamento personale, che non vuole forzare nessuno e non voglio ragione da parte di nessuno. Ma ci sono bambini in Palestina, in Siria, in tanti posti del mondo che i petardi li sentono, ma sentono quelli veri, e tutte le volte che ne sentono uno, magari è un pezzo di palazzo che crolla. E per noi è un divertimento l'esplosione. Per loro è un trauma e io avrei evitato proprio per rispetto di questo, ma è un mio pensiero, è una mia fissa, niente di più. E non è stato solo tu il pensiero, non ti preoccupare, che è una cosa che ho pensato anch'io. Ho visto su internet, Luca, questo qui che ha messo la carriola a testa in giù, ce l'ha buttato pettando sotto, se tu devi vedere come ha fatto la carriola, un video di Ramiere. E più di uno facendo sciabiture del genere adesso gli viene male a grattarsi perché gli mancano le dita. E non hai visto quello, se il bombardato le dita, anche se sono andati a pronto soccorso, l'hanno curato. E ritornato di nuovo, scoperto pettando, cazzo, si è ferito gravemente, che l'hanno dovuto di nuovo portare a pronto soccorso dopo pochi minuti. E il premio gliel'hanno dato? Sì, gli hanno dato il mongolino d'oro. Ne sarà orgoglioso, aspetta che andrò a la magnazzona come te che si gratta. Uia, vabbè. Io avevo un amico, adesso è morto poverino, che faceva il falegname e si aveva tranciato due dita con la sega circolare. E quando passava la gente faceva finta di mettersi le dita nel naso, no? Siccome ce l'aveva tagliato, il dito che ce l'aveva tagliato faceva finta di metterselo nel naso, tutti se lo guardavano male, si ridevano tutti. Vabbè, meschino, quello è incidente sul posto di lavoro, è meschino lui, però a Napoli c'è un bollettino di guerra tutti gli anni. E a Napoli sono esagerati e poi usano quei petardi che non si possono usare. sono bombe, non petardi. Io ne hanno scoppiato uno vicino a casa, ha vibrato tutto, non ti dico altro. Sono bombe, quello è fare il fosso proprio. Vabbè, e deve essere vanno i dinari rampazzi. Io per un petardo del genere che costa quasi 100 euro me ne vado un paio di volte in pizzeria. Ma anche io l'ho preso come te, io avevo prima la pistola, avevo la pistola scacciacani, no? E qualche colpo, ti dico la verità, prima non sparavo, 2-3 colpi che basta. Ma poi ho detto, ma non si può più, non si può più usare, e niente, ho preso, me la sono venduta. Non ne ho preso più, ed era bella, era una Bruni automatica, l'ho venuta bella. C'è un amico che c'ha la Bruni, però calibro 9, quella vera da poligono, e l'ho vista, è una bella pistola. Cappa. E questa qua è proprio uguale, identica all'originale. È quasi, c'è gente che col tunnel si fa il buco e la usa come pistola vera, perché se tu li togli quel tappo che c'ha nella canna col tunnel, perché poi vuole tornare all'interno per fare la canna come deve essere fatta, praticamente diventa una pistola vera. Sì, stai parlando di una delle mie passioni. A me le armi mi hanno sempre affascinato. Però, vabbè. Come ci ha sempre detto, meglio non avere armi in casa, perché se dovesse succedere qualche cosa, la prima cosa che fai è prendere quindi un coltello, una cosa per difendersi, capito? E quando c'ha l'arma, si mette in un gambo, non va di nulla. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché... avere un'arma ti dà una consapevolezza di superiorità che se anche hai una discussione con una persona sai benissimo che lo scontro sarebbe impari, e allora ti dà più margine per dire ma futidini, la sabellini, chi non è così, chi non... capito? Ti dà proprio la sensazione di superiorità e riesci a essere molto più riflessivo e più calmo, proprio perché sai che se la prende è un casino per lui intanto che manco se lo immagina, ed è un casino per te che vai a usarla. Quindi averla ti dà consapevolezza e superiorità e ti dà molta più coscienza di lasciar perdere le cose, e te lo dico perché ho girato per lavoro con l'arma, perché ero rappresentante di prodotti a rischio, e ti dirò che mentre prima se uno all'incrocio mi mandava a fanculo ero a riprimere 4 carri, dopodiché invece dicevo ma sì, che cosa me ne scendo a fare, a fargli fare la cacca addosso, allora lo salutavo e me ne andavo. Sono passati tanti anni, ma averla ti dava più responsabilità. Ma dipende sempre in che situazione ti trovi, perché se tu trovi quell'aggressivo che ti sta picchiando, non è che ti metti a fare l'incomatico, cazzo. Cioè, se tu hai un aggressivo che ti sta prendendo un pezzo di ferro, ma quindi tira a capo, tu pigli l'arma e lo spari, c'è poco da fare. Quella diventa difesa personale, ma invece di sparare a lui, gli spari al parabrezza e gli dici il secondo o te lo regalo senza scoppiarlo o te lo scoppio addosso. E quello già cambia le cose, però devi avere sempre coscienza di quello che fai, perché per un imbecille non ti puoi rovinare la vita e il futuro, perché intanto ci vai sempre di mezzo, a ragione o a torto ci vai di mezzo. Da poco, da un po' di tempo è successo di tutto, che questo non ha rispettato la precedenza, questo qua si è sceso dalla macchina, l'ha preso a voce, quello là aveva la pistola, ha pigliato e parla dall'acqua, e l'ha gambarizzato, hai capito? Secondo chi trovi, infatti io dico sempre, mai attaccarsi a nessuno, in macchina e cose, lascia perdere, perché intanto secondo chi trovi armato, di cui una pistola, di cui una pistola, ma di finito. Ma quello anche vale per i ragazzini che hanno tutti il coltello in tasca. Io se mi mettevo un coltello in tasca al ragazzino, me lo trovava mio padre, mi storpiava, perché non dovevo girare con un coltellino, e non me ne è mai venuto in testa di mettermi un coltello in tasca, perché sapevo che il babbo mi avrebbe fatto le braccia a maniche corte. Ora invece si picchiano fuori dalla discoteca, 4 a coltellate, quattro coltellate sul petto, una sull'addome, cioè, ma veramente questi ragazzini vanno a ballare col coltello in tasca. Ma babbo e mamma non hanno. Perché non ci sono controlli, io alla tua discoteca li avrei tutti perquisiti, così almeno sai se c'è la pecora mela in mezzo agli altri, c'è poco da fare. Una perquisizione l'avrei fatto, perché non è possibile che si ammazzino così ragazzi giovani, boh. E io ho visto una risa platamona quest'estate, ero con una mia compagna, che la mia compagna mi ha detto, si stanno picchiando già, guarda, fermati, mi fermo, ma tu sei macca. Erano una vecchia di ragazzi che si stavano prendendo a pugni, a calcio e cose, io mi fermo e mi metto in mezzo, ma se si sta scherzando. Vabbè, le zuffe ci sono sempre state, però probabilmente, io mi ricordo le zuffe in Piazza d'Italia, erano due cazzotti, poi uno si sedeva e l'altro dice, e l'altro si fermava, non lo sfondava, gli dava due schiaffi, lo sedeva e finiva lì. Adesso invece si organizzano di mazze, si organizzano di catene, di coltelli, ma veramente la televisione gli ha fatto male a testa. E ripeto, non hanno un babbo come lo avuto io, che se avesse sentito una cosa del genere me ne avrebbe troncato. Sì, ero grido io. Ma prima era diversa l'educazione che c'era. Io lo stesso, mio padre era bravo, però quando combinavi cose, usava la cinghia e cose, di cui era giusta, che anche a te mia zia. Però l'educazione era diversa, capito? Era diversa. Non è come adesso che li fanno fare quello che vogliono, i ragazzi tornano alle 3 di mattina, si imbriagano, i padri. Io, guarda, ho trovato una coppia, una figlia di un'amica mia in Piazza dei Segni, che mi ha riconosciuto, era col ragazzo, tutti e due, uno più cotto dell'altro, ridendo come scemi. Sono venuti a salutarmi, ma guarda, non stavano manco in piedi. Ma finché fa vino buono e rilevano, andava, è che molti al secondo bicchiere gli vengono le manie di protagonismo, diventano scontrosi, diventano prepotenti, pensano di avere il fisico, è veramente, veramente triste la cosa. Allora io quando ero ragazzo stavo in Piazza d'Italia, come penso con tutti, prima era il salotto di Sassari in Piazza d'Italia. E c'era questo ragazzo che ogni sera passava, dava gli schiaffi, ci dava lo schiaffo senza motivo e se ne andava. Una sera c'era questo ragazzo che aveva gli occhiali grossi, sembrava un tipico soggetto, come ha preso, gli ha dato uno schiaffo, cazzo, questo qui si è tolto gli occhiali, ti è cuto una giusta, io dico, cazzo, che si da quando capa se ne ricorda, a pugni, a calci, a parati di beni, cioè l'ha buttato in terra e continuava a picchiarlo. Gli ha detto, questo qui è solo l'inizio, non ti fare più vedere qua. Ecco, e l'ha fatto Rugonto di tutti gli schiaffi che aveva dato, gli ha fatto un conto complessivo e li ha tutti durati. E allora, eppure sembrava un bravo ragazzo, era con la sua gente che parlava tranquillo, e passando guiso, mi illumino, ho detto, sta passando quello che dà gli schiaffi. Abbiamo guardato e dato uno schiaffo a questo qua, deve essere che si sceglieva la persona più strana, cosa, questo aveva gli occhiali grossi, sicuramente era abbinato un massuggito, era tutto un ciappo, cazzo, si gira lì, ui ui ui, gli ha detto l'amico, ma tienimi gli occhiali, cazzo, e io dico che non mi riria, e quindi ha tutta andata. E magari era abituato a togliersi gli occhiali in palestra e magari faceva box o piuttosto che faceva karate o qualche arte marziale o magari era uno sveglio e ci aveva solo gli occhiali. E ha fatto bene. Secondo me era qualche. E un'altra volta ne ho visto un altro, un incidente, si sono sbattute due macchine in via Cagliari. E quello che non mi va a dare la precedenza era un bel grosso e l'altro era mingherlino e basso. E praticamente questo grosso si è uscito dalla macchina e ha cominciato a dire parolacce e cose, questo qua. Ha preso, c'erano le macchine sbattute, lui era dall'altra parte. saltato le macchine e tutta una banda di belli a faccia che su grosso, una rampata in terra, e gli ha dato una susa davanti a tutti, ci ha fatto una figura, sembrava un sacco di patate. Ecco, e poi hanno discusso dell'incidente. E poi l'incidente era colpa anche di quello là, capito? Lui si è pensato di parolacce e coso, e la colpa era la sua, perché doveva dare la precedenza. C'è gente che non si rende conto di quello che fa, capito? Sono prepotenti e tutti così vogliono ragione loro. Dico, vabbè, ci avrò la colpa, però io voglio la ragione. Mi hai capito come? Ci sono quelle persone che sono prepotenti e cosa? Non sai cosa è successo? Mio figlio era con un amico in macchina, mio figlio ha 23 anni, 24 anni, era con questo amico in macchina, questo qua si è avvicinato, ha cominciato a dirle cosa, non so che cosa. Lui ha fatto finta di nulla, non lo cagava nemmeno. Questo qua se ne è sceso dalla macchina, c'erano il finestrino aperto e l'ha preso tutto a schiaffi, e poi la ragazza ha detto non vi azzuffate perché sennò la prendete forte. State calmi, gli ha detto, capito? Come dire che non mi sia più forte. Non esiste il più forte, perché il più forte ne prova sempre uno che lo assenta. Ma mio figlio gli ha fatto la fotografia, la targa, e l'hanno denunciato. E sa giustizia di Brancidi. Vabbè, comunque, se trova persone magari che sono più forti di lui, si rubano il soldo. Vabbè, ma c'è sempre una gente così prepotente, non conviene mai, conviene sempre far finta di nulla e basta, lasciarlo perdere. Conviene sempre evitare, tanto non porta niente. Che ne prendi e c'hai i dolori, che ne dai e ti denunciano e tocca pagarli per buoni, è sempre a compromettersi, non si guadagna mai niente. No, ma infatti chi si mette con le mani è perché non ha le parole per parlare, non sa parlare, e allora usa le mani per quello, non ragiona e usa le mani. Che non ha altro metodo, è normale. Mi sa che io adesso ti saluto e vado a portare le camicie, mi sta mancando la voce, non te ne sei accorto, mi sta mancando la voce, devo scendere giù, fretta e furia, a portare il cane e poi stare male a casa, perché sennò mi voglio da che malato. Sarà colpa dell'uomo ragno allora? No, lo sai cosa, ero già influenzato, però la verità, non volevo rinunciare a vedere il concerto, ci tenevo troppo. Va bene. Per il mal di gola comunque ti consiglio maialetto al forno con le patate, dice che fa benissimo per il mal di gola. Cosa? E il maialetto fatto in forno con le patate, dice che è la mano di Dio. E dopo, proprio per essere sicuro, sempre per il mal di gola, un paio di gamberoni, chi si manni, barone? Oh, ne ho fatto scorpacciata a Natale di gamberoni, non li voglio più sapere. Adesso ci sto un anno senza mangiare, ho mangiato troppi. Ma troppi, ti dico la verità, due giorni ho mangiato gamberoni, sono stato. E allora fatti l'agnello in umido con le olive, che fa sempre bene al mal di gola anche quello. Pure la carciofa che è più buona. Bello, sempre per il mal di gola, non per altro. Ehi, già fa bene anche allo stomaco. Ma carità, in questi giorni ci vuole brodo per liberare tutto quello che mi sono fracannato. Però vabbè, ho evitato carboidrati, ho mangiato cose buone e da ieri ho ripreso la dieta. No, io la verità, per questa influenza qua avevo nausea, sempre nausea, e non ho mangiato quasi nulla, proprio ho gustato appena appena di carne di agnello e basta. Non ho mangiato le panettone, nulla, proprio perché ero nauseato, non avevo voglia di mangiare. Questa influenza non fa mala sorte, ti nausea e non mangi nulla. Anche io ho evitato pasta al forno, panettoni, spumantini, eccetera, e mi sono dedicato più a pesce, polpi. Grossa, abbiamo fatto roba di pesce proprio per rispettare la dieta che ho iniziato, se no rovinavo tutto, e me la sono cavata bene, non sono andato, certo non è che ho rinunciato a tutto, ma ma se facevo, se ho fatto il cenone o magari ho fatto il cenone leggero, il pranzo dell'indomani un po' più pranzo, perché comunque è festa, però sono stato attento, da. Oh, io il cenone di Natale è tutta roba di pesce lo stesso, e c'erano anche i gamberoni tra l'altro, e poi il giorno dopo eravamo invitati a casa di amici, eravamo una ventina di persone, e lui è tradizionalista, fa il porcetto e l'agnello arrosto nel camino. Niente, ho assaggiato un pezzo di agnello, ma dove c'è il rene, perché a me mi piace il rene, mi ho mangiato quel pezzettino lì, boh, non ho toccato altro, c'era di tutti, di piccere salata russa, c'era questo, c'era l'altro, se sta a gustare un po' di tutto mangiavi sempre tanto. Vabbè, anche io adesso mi dedico a prepararmi qualcosa e niente, ci sentiamo alle prossime, ce ne passiamo tutte e due in QRT e ci sentiamo prossimamente. Buona serata. Ciao Luca, ciao, ci sentiamo, buona serata anche a te, buona carica quando la fai. E saluto anche quelli che stanno ascoltando che non si sono presentati stasera.